Capitolo 99. La federalizzazione dell'Attica. Quando Tesio succedette al padre suo Egeo sul trono di Atene, rafforzò il proprio potere mettendo a morte quasi tutti i rivali, salvo Pallade e quanti dei suoi 50 figli erano sopravvissuti. Alcuni anni dopo, tuttavia, egli uccise anche costoro per misura precauzionale. Accusato di assassinio presso il tribunale di Apollo il Delfino, si difese dicendo che si trattava di omicidio giustificabile, una scusa mai addotta prima d'allora, e fu assolto. Si recò poi a Trezene, dove regnava suo figlio Ippolito, per esservi purificato e rimase colà un anno intero. A ritorno sospettò della lealtà di un fratellastro, chiamato anch'egli Pallade, e subito lo esiliò. Pallade fondò Pallanzio in Arcadia, benché altri dicano che tale città fosse stata fondata da Pallade, figlio di Licaone, poco dopo il diluvio di Deucalione. Tesio si rivelò un sovrano illuminato e iniziò la politica della federazione, che fu l'origine dello splendore di Atene. Fino a quei tempi l'Attica era stata divisa in 12 comunità e ciascuna si amministrava senza ricorrere al re d'Atene, se non nei casi di emergenza. Gli Eleusini avevano persino dichiarato guerra a Eretteo e le lotte intestine non si contavano. Per indurre queste comunità a rinunciare alla loro indipendenza, Tesio doveva affrontare a uno i capi delle tribù e dei gruppi familiari, e così fece. Trovò i servi e i piccoli proprietari disposti a obbedirlo e si conquistò le simpatie di molti grandi proprietari quando promise di abolire la monarchia sostituendola con la democrazia, pur riservando per sé i titoli di comandante in capo e di giudice supremo. E infine usò la forza contro coloro che ancora si opponevano al suo progetto. Tesio fu investito così del potere di sciogliere tutti i governi locali, dopo aver convocato i loro delegati ad Atene, dove istituì il Gran Concilio e la Corte Suprema che esistono tuttora, ma non volle interferire nelle leggi che governano la proprietà privata. Unì poi i sobborghi di Atene alla città vera e propria che, fino a quel giorno, si componeva dell'Acropoli e dell'immediata zona circostante e comprendeva i templi di Zeus Olimpio, di Apollo Pizio, della Madre Terra, di Dioniso delle Paludi e l'acquedotto delle Nove Sorgenti. Gli ateniesi chiamano ancora l'Acropoli la città. Tesio volle che il 16° giorno del mese Ecatombeone, luglio, fosse detto giorno della federazione e vi si celebrasse una festa in onore di Atena con sacrifici incruenti offerti alla pace. Ai giochi ateniesi diede il nuovo nome di Panateneae e tutta l'Attica poteva parteciparvi. Tesio introdusse anche il culto di Afrodite federale e della persuasione. Poi, rinunciando al trono, come aveva promesso, diede all'Attica una nuova costituzione sotto i migliori auspici. L'oracolo delfico aveva infatti profetizzato che Atene avrebbe solcato il procelloso mare senza pericolo. Per favorire lo sviluppo della città, Tesio invitò tutti gli stranieri che ne riteneva degni a divenire suoi concittadini. I suoi araldi, che percorsero l'intera Grecia, lanciavano un richiamo ancora in uso: «Fatevi avanti, o gente!». Molti stranieri affluirono dunque ad Atene e Tesio divise la popolazione in tre classi: gli eupatridi, ossia coloro che bene meritarono dalla patria, i georgi, ossia i contadini, e i demiurghi o artefici. Gli eupatridi occupavano le cariche più alte, erano sacerdoti, magistrati, interpreti della legge. I georgi coltivavano la terra ed erano la spina dorsale della nazione. I demiurghi, che formavano la classe più numerosa, erano artigiani di ogni tipo, carpentieri, araldi, chirurghi, indovini, scultori e sarti. Così Tesio fu il primo re che fondò una comunità sociale bene organizzata, e per questa ragione Omero, nel catalogo delle navi, indica gli ateniesi come il solo popolo sovrano. La sua costituzione rimase in vigore finché i tiranni si impadronirono del potere. Taluni tuttavia negano che questa tradizione corrisponda alla verità. Essi dicono che Tesio continuò a regnare come prima e che, dopo la morte di re Menesteo, che guidò gli ateniesi contro Troia, la sua dinastia durò per altre 3 generazioni. Tesio, il primo re ateniese che batté moneta, usò come conio l'immagine di un toro. Non si sa se questo animale rappresentasse Posidone o Tauro, il generale di Minosse, oppure se fosse un simbolo propiziatorio per l'agricoltura. ma determinò tuttavia una scala di valori indicata dai termini 10 buoi o 100 buoi e che fu usata per molto tempo. Emulando Eracle, che aveva nominato Zeus patrono dei giochi olimpici, Teseo nominò Posidone patrono dei giochi istmici. Fino a quel giorno, patrono di quei giochi era stato Melicerte, figlio di Ino, e i giochi stessi, che si celebravano nottetempo, avevano più il carattere di misteri che di pubblico spettacolo. Inoltre Teseo riaffermò la sovranità di Atene su Megara e, convocati sull'istmo i delegati del Peloponneso, riuscì a imporre il proprio parere per dirimere una vecchia questione di confine tra i peloponnesiaci e i loro vicini ioni. In un luogo prescelto con pieno accordo dalle due parti, egli innalzò la famosa colonna sul cui lato orientale era scritto «Questo non è Peloponneso, ma Ionia», e sul lato occidentale «Questa non è Ionia, ma Peloponneso». Ottenne altresì che Corinto concedesse agli ateniesi il posto d'onore nei giochi istmici. Tale posto d'onore consisteva in tanto spazio di terreno quanto poteva esserne coperto dalla vela maestra della nave che aveva portato gli ateniesi all'istmo. Gli elementi mitici della storia di Teseo sono stati qui sommersi da altri episodi che si presentano come autentici nella storia della Costituzione ateniese. Ma la federalizzazione dell'Attica si sarebbe verificata così con 100 anni di anticipo e le riforme attribuite a Teseo sono un argomento di propaganda probabilmente inventato da Clistene nel V secolo. Anche le riforme legali della tarda monarchia giudaica furono attribuite a Mosè dai redattori del Pentateuco. I buoi erano l'unità di valore più diffusa nell'antica Grecia, in Italia e in Irlanda, così come lo sono ancora oggi tra le tribù pastorali dell'Africa orientale. Gli ateniesi coniarono monete soltanto 500 anni dopo la fine della guerra di Troia, ma è tuttavia vero che sui lingotti di rame cretesi di peso costante veniva ufficialmente impresso un timbro con la testa di un toro oppure con un vitello sdraiato, e i butadi di Atene, che pare siano responsabili delle molte frange aggiunte al mito di Teseo, si ricordarono forse di questa usanza quando coniarono le monete con una testa di bue, emblema della loro tribù. La suddivisione dell'Attica in 12 comunità trova un parallelo nell'analoga confederazione formatasi nel delta del Nilo e in Etruria o nella distribuzione del territorio di Canaan tra le 12 tribù di Israele. In ogni caso, può darsi che tale numero fosse stato scelto per permettere al monarca di passare un mese presso ciascuna tribù. I greci dei tempi eroici non facevano distinzione tra omicidio volontario e preterintenzionale. In ambedue i casi bisognava lavare col sangue l'offesa fatta alla tribù della vittima. L'uccisore cambiava poi nome e si allontanava dalla città per sempre. Telamone e Peleo, infatti, continuarono a godere del favore degli dei benché avessero ucciso Foco a tradimento. E Medea uccise Apsirto senza mettersi in urto con i suoi nuovi sudditi corinzi. Ad Atene, tuttavia, nell'epoca classica, l'omicidio volontario, Phonos, era punito con la morte, l'omicidio preterintenzionale, accusia, era punito con l'esilio e la legge imponeva alle tribù di sostenere l'accusa. Phonos hecousios, omicidio giustificabile, e Phonos accusios, omicidio scusabile, furono sottigliezze giuridiche di epoca più tarda, che Dracone introdusse probabilmente nel VII secolo a.C. Il Phonos accusios doveva essere espiato con una purificazione rituale. I mitografi non capirono che Teseo evitò di essere esiliato a vita dopo l'assassinio dei Pallantidi, soltanto perché sterminò l'intera tribù, così come fece Davide con la casa di Saul. Il soggiorno di un anno a Trezene bastò a purificare la città contaminata dall'assassinio.